il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Ci è capitato in altre occasioni di parlare di cinema e ancora ci capiterà, però ormai avete capito come siamo fatti. Spesso noi, invece di raccontare la storia del grande attore, di film passati alla storia, di mattatori, campioni di incasso, eccetera, a volte vogliamo concentrarci su quei personaggi apparentemente minori, quelli di nicchia, che magari compaiono non in tutte le scene, però che risultano intanto fondamentali per il successo di un film e anche per, come dire, la linea editoriale di questo film. Una volta, per esempio, abbiamo parlato di Bombolo, che ha rappresentato la romanità genuina della borgata. Ecco, oggi voglio raccontare la storia di un altro grande caratterista, un attore per caso, perché, come vedremo, il personaggio che interpretava era esattamente uguale a quello che viveva, cioè a come era lui nella realtà. Il suo nome è Guido Nicheli e questo potrebbe ancora non dirvi molto, però per gli amici era il Dogui, capovolgimento delle due sillabe. La maggior parte del pubblico lo conosce con il nome di uno dei suoi personaggi più famosi, che era il commendator Camillo Zampetti. Buongiorno cari, innanzitutto mi presento, io sono il commendator Zampetti. Lo sappiamo. Ah sì? Su, iniziamo l'esame, quale materia porta per prima? Stiamo calmi, forse non avete capito, I repeat, io sono Zampetti. Eh sì, il mitico commerciante di insaccati, personaggio dei Ragazzi della Terza C, il telefilm che sul finire degli anni Ottanta ha letteralmente spopolato in televisione. Ma la figura del Zampetti, interpretato da Guido Nicheli, è il ritratto del commenda milanese, il bauscia, quello pieno di soldi, pieno di sé, che si vanta di frequentare la Sardegna in estate e Cortina in inverno, cioè che si getta a piene mani nel regno del l'effimero. Bene, lui questo ruolo l'ha interpretato con grande successo, perché in realtà lui era veramente così. È una storia lunga, mi seguono da quando avevo 30 anni. Verso i 40 ho detto facciamo il salto. Siccome era difficile cominciare a diventare difficoltoso catturare, e allora ho detto mettiamo la faccia in vetrina, così la popolarità aiuta, sai. Certo, catturare naturalmente, si parla di donne, e lui non se n'è mai fatte mancare di donne, ha vissuto una vita alla grande. Il successo è arrivato tardi, un po' per caso, un po' come dice lui, perché dopo i 40 c'è bisogno di qualche valore aggiunto per continuare a catturare. Lui nasce nel 35 a Bergamo, rimane orfano di padre, si trasferisce a Milano, prende il diploma da odontotecnico, comincia a fare l'assistente nello studio di suo cugino, però fin da ragazzo ha le idee decisamente chiare. Se avessi continuato a farlo odontotecnico e ho continuato a lavorare con una certa, diciamo, regolarità, probabilmente sarei anche ricco. Mentre invece io, quando avevo 3.000 dollari, chiudevo il laboratorio, dicevo 100 dollari al giorno, 30 giorni di viaggi e partivo. In questa intervista che ha rilasciato a Marco Giusti per Stracult, Nicheli mette subito le cose in chiaro. Bisogna lavorare quel tanto che basta per avere i soldi da spendere in divertimento e calcolare tutto rigorosamente in dollari. E questo ve lo posso dire perché io lo conoscevo abbastanza bene. Lui non ha mai parlato di lire con me. Quando si parlava di soldi, raramente lui parlava di dollari, perché il vero commenda milanese non ragionava in lire, neanche in euro oggi, in dollari. Non dice arrivederci, dice see you later. Lui si esprime forse in un modo un po' esagerato, però è fatto così, sembra un personaggio da cabaret, e infatti è inevitabile che cominci a frequentare la culla della comicità milanese, cioè il derby. Siamo agli inizi degli anni 70, Guido Nicheli è sposato, il primo dei tre matrimoni che accompagneranno la sua vita. Lui però è uno a cui piace uscire la sera, gli piace divertirsi, però non è il tipo che va in un ristorantino con la moglie a fare la passeggiatina, lui vuole andare dove ci si diverte e dove ci sono belle ragazze da vedere. Infatti io non l'ho mai incontrato prima delle 11 di sera in giro per Milano, e allora si inventa una professione che giustifichi la frequentazione di quei locali, fa il rappresentante di whisky. Così per lavoro deve frequentare i vari nightclub di Milano, soprattutto il derby, dove fa amicizia con Abatantuono, Teocoli, Iannacci, insomma i ragazzi della comicità italiana. Tac, come direbbe lui, detto fatto, Nicheli entra in contatto con il mondo dello spettacolo. È impossibile che qualcuno di importante non lo noti. Nel 1975, perché mi trovo in vacanza a Porto Ercole, appunto come dicevo, ero andato a fare un weekend, era il mese di giugno, e abbiamo pensato di allungare lunedì e martedì. A lunedì sera, Porto Ercole, mese di giugno, deserto, entriamo in un ristorante a cena. Nel ristorante c'era Steno, Pozzetto, Teocoli. Steno l'avevo conosciuto a Rio de Janeiro 10 anni prima, già mi aveva detto, prima o poi ti farò fare un film. E da lì, allora, quella sera lì, Dogui, come va? Vieni qua, si è seduti, abbiamo parlato, e vedevo Steno che continuava a guardarmi così, mi ha detto, domani ti faccio lavorare. E gli ho detto, dipende cosa c'è sul piatto. Eh sì, perché Guido, anzi Dogui come si fa a chiamare lui, non è certo lì a inseguire i registi, gli attori per pregarli di recitare, a lui non gliene frega niente di diventare una stella del cinema, a lui interessa solo sapere quanto c'è da guadagnare, cosa c'è sul piatto, se tutto è condito poi da una buona compagnia femminile, allora l'affare si può fare. E lui è fatto così perché è uno spirito libero, fa l'odontotecnico solo per poter viaggiare e gli propongono di recitare, a lui vuole solo divertirsi, guadagnare qualcosa per proseguire questa sua vita. Forse si può pensare che sia superficiale, ma se voi aveste la possibilità di fare quello che fa lui, probabilmente come minimo ci fareste un pensierino. C'era Teocoli, c'era Pozzetto, erano già fermati. Io ero il primo film che facevo, quando ho detto due o tre battute ho sentito la gente in platea che rideva, ho detto forse ho trovato il veleno. Tac. Il falco e il gabbiano. Siamo arrivati all'esordio di Guido Nicheli, il Dogui, nel mondo del cinema. Il film è Il padrone e l'operaio e lui interpreta se stesso, il ricco sbruffone milanese che ostenta in modo a volte anche irritante la sua opulenza. Comunque la reazione del pubblico è molto positiva. Il numero di telefono di Nicheli comincia a girare tra le agende dei registi della commedia italiana, che lo chiamano sempre solo per interpretare quel personaggio che funziona così tanto. E poi a volte il destino ti aiuta, perché un giorno nello studio dentistico dove Nicheli lavora si presenta Enrico Vanzina, che rimane folgorato dal personaggio che il Dogui interpreta con tanta naturalezza. E sì, perché lui, lo abbiamo detto e lo diremo ancora, lui è veramente così come appare nei film. Così Nicheli recita nel film Una vacanza bestiale ed è il primo di 6 lavori che lui girerà coi fratelli Vanzina. La libidine invece è qua, è qui la galva. Sì, spenderemo qualcosa in più. Beh, certo, 15 giorni su un'isola deserta, 22 milioni. Esatto, 22 zucche. Ma non vorrei paragonarmi alla Sardegna con qua, dai. Ma scusami, guarda la capanna, come siamo messi secondo te? La capanna col Grand Hotel, non c'è paragone. Ah no? Ma poi soprattutto, vedi, soprattutto, noi, we stay here alone. Cosa? Siamo soli. E poi siamo lontani dagli animali, perché l'animale avanza, l'animale si muove. Beh, i film naturalmente non sono delle pietre miliari del nostro cinema, non sono Eisenstein e Rossellini, la critica li liquida spesso con poche righe, però in realtà il pubblico li ama, va al cinema e ride, e anche Guido Nicheli col suo personaggio del ricco milanese diventa una faccia conosciuta. Devo essere molto grato ai Brothers, che io li chiamo così, sono i fratelli Vanzina, perché con i quali ho fatto 6 o 7 film... che sono diventati dei cult movie, sono diventati, perché sono tipo vacanze di Natale, sapore di mare. E poi c'è il 1983, qui esce un film storico, Sapore di mare, che è un film che diventa un classico della commedia italiana. C'è Jerry Calà, Christian De Sica, Isabella Ferrari giovanissima, Marina Suma e la grandissima Virna Lisi. E il Dogui, Guido Nicheli, interpreta proprio la parte del marito noioso di Virna Lisi, che viene annoiata da un uomo che parla solo di automobili e di generi di lusso, e quindi andrà a cercare le attenzioni del giovane amico della figlia. E nella parte del noioso uomo d'affari c'è proprio lui, il Dogui. Ti ricordi quella volta a Cortina? Yes, I remember. Faceva un freddo della Madonna. Solo quello ti ricordi? No, non mi ricordo per esempio che macchina avevo, se era un Alfone 1900 o se era l'Aurelia Spider. Senti, cos'ero? Alfista o lancista? Era una Porsche. Esatto, brava. Macchina di grande libidine. La facilità con cui Nicheli interpreta la parte del ricco industriale lo porta a essere chiamato da molti registi. Tra l'82 e l'84 lui recita in 8 film. Il personaggio è sempre lo stesso, però non importa niente, perché lui ama soprattutto frequentare il jet set, frequentare persone che si comportano esattamente come lui, e soprattutto ci sono tante belle donne, o come dice lui capovolgendo le sillabe, un sacco di gefi. Fate voi il capovolgimento. Sicuramente, insomma, si fa una vita molto più interessante che non quella che faceva prima a riparare dentiere. Nell'85 c'è l'occasione per cambiare rotta, perché Dino Risi sta girando un film che non è una commedia, anzi ci sono dei risvolti tragici, ci sono personaggi molto conosciuti, c'è Fabio Testi, Beppe Grillo, Bisio. Risi chiama anche Nicheli, però gli impone il personaggio di un siciliano. Sembra assurdo, ma la parte del soldato lombardo la fa fare a Fabio Testi. Lui non si fa problemi, si lascia doppiare, il film va a Cannes e Nicheli ha anche la soddisfazione di percorrere il red carpet come un grande attore di Hollywood. E voi come pensate che abbia commentato questo avvenimento il Dogui? Libidine, grandissima libidine. Il film, che era scemo di guerra, rimane una parentesi, perché poi lui torna a recitare se stesso, il Dogui, e chi ha lavorato con lui ricorda momenti di grandissimo divertimento. Questo perché le più famose battute con cui viene ricordato non nascevano tanto da copioni, ma dall'improvvisazione con la macchina da presa accesa. Spesso le scene venivano interrotte dalle risate improvvise provocate da una battuta inaspettata del Dogui. Ivana, fai volare l'occhio sul te. Via della Spiga, Hotel Cristallo di Cortina, 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing. Alboreto is nothing. E lì tutto il set si sono messi a ridere, no? E anche Carlo, che era alla regia, ha riso, no? Però dopo me l'ha detto, dico, ma quando mi dici le cose, dimmele prima, perché se abbiamo dovuto rifare la scena. Nell'87 poi arriva la televisione con i ragazzi della terza C, con la nascita a tutti gli effetti del personaggio del commendatore, il commendatore Zampetti, con i suoi modi di dire che entrano a far parte della parlata di tutti i ragazzi che guardano questa fortunata serie televisiva. Bene, ma gli aneddoti non sono ancora finiti, perché adesso verranno i suoi amici a raccontare. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita di un grande caratterista del cinema italiano, Guido Nicheli, che è un attore per caso, un attore che non ha fatto altro che portare davanti alla macchina da presa il suo personale modo di vedere il mondo, il suo modo di essere, e questo colpo d'ala quasi involontario ha creato il suo personaggio, lo Zampetti, che ancora oggi viene citato, imitato in molte occasioni. Guarda, sono proprio indeciso, sai, non so mica che macchina comprarvi. Sono decisioni tremende quella lì, eh. Io l'ultima volta che ero in bilico tra la Fetta Turbo e il BMW iniezione sono entrato in paranoia. E poi è sceso il Mercedes. Ah sì, guarda, sono proprio d'accordo. Altra categoria. Cambiare caro è una scelta di vita, believe me. Ivana, andiamo a pattinare. Sì. Voi venite? Senz'altro, se ti pare che uno viene in montagna a pattinare. Ma la libidine è qui, amore. sole, whisky e sei in pole position. E noi abbiamo al telefono un signore che ha fatto la storia del cinema italiano, Renato Pozzetto. Buongiorno. Ciao, come stai? Bene, come va? Tutto bene? Bene, bene, abbastanza bene, grazie. Allora, noi stiamo parlando di un certo tipo di cinema e di una comicità del nord, se così si può dire, della quale, insomma, tu sei l'attore principale, però poi ci sono una serie di personaggi che in qualche modo sono diventati degli stereotipi precisi di un certo tipo di divertimento. Intanto è vero che tu e Micheli eravate amici d'infanzia? No, di infanzia no, insomma, da ragazzi, insomma, eravamo già grandicelli e battevamo tutte e due, diciamo, il centro a Piazza Missori, più o meno lì c'era, lì dove c'è il comune, l'ingresso del comune. Beh, ho capito perfettamente. Il bar del Marocco, ecco. Sì. Io lì andavo ancora prima di fare il saltimbanco. Mi divertivo con Cocchi, a cantare delle canzoncine, che sono canzoni popolari. E poi quando siamo sbarcati in cabaret nel 64, Guido mi chiedeva come mai facessi quelle cose lì, insomma, quando c'erano i vari Celentano, insomma, così, che davano lezione, no? Certo. Perché io e Cocchi suonavamo con la chitarrina nel sottoscala di un bar. Sì. Noi eravamo 5-6 clienti, potevano essere 15-18, ecco. Sì, c'era poco più pubblico di chi si esibiva. Poi invece col successo che abbiamo avuto, poi quando siamo andati con Iannacci al derby, lui veniva a trovarci e così, insomma, è rimasto un po' abbagliato anche dal successo che avevamo, soprattutto da quella Milano, chiamiamola così, da bere, no? Di quegli anni sì, là, esatto. E assediava il derby, perché era nato qualche cosa di nuovo al quale poi si sono aggrappati tutti, per usare una parola magari scorretta, da quale tutti sono un po' così relazionati, per cercando di prendere qualche cosa, ecco. E Guido era molto simpatico già di natura, un ragazzo così, eravamo tutti un po' da marciapiede, noi che venivamo dalla guerra e dal marciapiede, come si suol dire. Era molto simpatico di per sé. Poi quando attraverso l'amicizia con me ha frequentato anche lui il bar Gatullo di Milano, che tu dovresti conoscere. È molto bene. Ecco, lì c'era una compagnia di ragazzi molto simpatici e molto svegli, che aveva coniato un modo così di... C'è ancora una foto da Gatullo di tutta la storia del cabaret milanese. Mi fa piacere che tu l'abbia vista. I ragazzi avevano coniato un modo al quale, diciamo, non solo Dogui si è ispirato, perché era un modo, diciamo, abbastanza curioso, ecco, parlare al contrario, dire le parole al contrario. Tu lo chiami Dogui, cioè ti è venuto di chiamarlo Dogui? No, perché era il Dogui, per noi era il Dogui, quando poi si battevano gli stessi posti, appunto il bar Gatullo, così. È un caso di persona che non faceva nulla dal punto di vista recitativo, cioè faceva solo, andava a portare se stesso sul set. A me viene in mente, sembra che non c'entri ma c'entra, Bombolo per quanto riguarda la romanità, cioè determinati personaggi che erano esattamente fuori dal set come lo erano sul set. Esiste ancora, secondo te, la possibilità per quello che una volta si chiamava il caratterista? Diciamo che lui si è un po', insomma, affinato un po' al modo, proprio perché frequentava il derby, perché noi logicamente eravamo rimasti amici, certo, da marciapiede. In più, anche Iannacci, povero Beppe Viola, così, povero Enzo, si erano ispirati spesso al modo di dire del bar Gatullo. Certo. Era un luogo così affascinante, dove tutti poi venivano a frequentare, insomma, l'ora dell'aperitivo, oppure dopo cena, così, insomma, il bar che esisteva negli anni 60. Ecco. Certo. Senti, ma il famoso TAC, chi è che lo inventa? Che io continuo a dirlo ancora oggi, a volte mi vergogno di me stesso perché mi viene da dirlo. Il TAC nasce da un gesto che faceva un ragazzo che veniva al derby, che si chiama Mario Valera, e che aveva l'abitudine di raccontare le cose, gli puntava un dito alla gola, alla pancia o in un occhio, e diceva: tac, se ieri sono andato a giocare ai cavalli, tac, nella gola, e ho perso, tac, tac. E io, insomma, la cosa mi aveva divertito e allora me ne sono appropriato, ecco. Grazie Renato, sei stato gentilissimo come sempre, un abbraccio. Grazie, ciao. Quindi abbiamo detto prima che uno dei film rivelazione di Guido Micheli, insomma uno dei momenti in cui lui si è imposto all'attenzione del pubblico, è stato sicuramente Sapore di Mare e tutta la saga che ne è seguita. Nel cast di Sapore di Mare c'era Virna Lisi, c'era Christian De Sica, Isabella Ferrari e c'era anche, o soprattutto, Jerry Calà, che oggi abbiamo qui. Buongiorno Jerry. Ciao Enrico, buongiorno. Buongiorno. Dunque, Sapore di Mare è diventato un film di culto, è diventato un modo di essere, una fotografia molto precisa di quell'Italia, con personaggi azzeccati, con le storie che molti di noi hanno vissuto in vacanza. Il Dogui, come l'hai conosciuto? Cioè come lo inserisci in questo mondo? E Guido per me era veramente un punto di riferimento, un fratello, cioè ci frequentavamo anche fuori dal lavoro, poi ultimamente lui frequentava spesso il Lago di Garda, dove io sì, appunto bazzico, e poi veniva a casa mia a Verona. Era un personaggio strano, un personaggio che però ha dato molto fin da quegli anni certo, al cabaret milanese, perché lui, pur ancora non esibendo, sì, si era inventato un linguaggio, una maniera, appunto, uno slang, diciamo, sì, un slang che al quale attingevano a man bassa tutti i cabarettisti che si esibivano al Derby. Era una fonte di ispirazione, capito, per tutti noi, fino a quando poi finalmente lo hanno messo su un palco anche lui, e allora è cominciata la sua carriera. Ma chi è che ha pensato di fargli fare, esatto, chi è che ha scelto di fargli fare il cinema? Siete stati un po' voi a portarlo lì? La sua vera prima grande parte, a parte qualche apparizione, qualche film sempre degli amici, tipo o di sì, Pozzetto, di Villaggio, così, la prima grande Sapore di Mare. A parte è stata Sapore di Mare. Quando viene cornificato da Virna Lisi. Da Virna Lisi, sì. Beh sì, era lo stereotipo di quello del Commenda che corre dietro alle ragazze più giovani, però intanto qualcuno gli porta via la moglie. Sì, e che poi c'ha tutte le sue regole, hai capito, come poi ribadirà ancora meglio in Vacanza di Natale, sì, quando arriva in albergo, il Fanta bello dritto, esatto, asciugamani a raffica. O anche in Yuppies, dove faceva il tuo capo. Anche in Yuppies dove faceva... Diciamo che poi con me, diciamo che ha avuto un rapporto molto particolare, perché è diventato il mio spauracchio nel cinema, no? Certo. La mia spalla, cioè faceva il mio capo. Poi io ho fatto un altro film con lui che si titolava Domani mi sposo, con Isabella, sì, Ferrari, dove lui faceva il padre della sposa. Come no? sempre spauracchio, insomma. Sì, io, perché... Il mio rammarico è che però a un certo punto hanno deciso che lui non andava più, e questo è stato brutto per lui, perché così secondo me lui era un grandissimo caratterista, e però non ha avuto quello, secondo me, quello che meritava. Per quanto mi riguarda, almeno, insomma, io quello che ho potuto lo sappiamo, infatti ti abbiamo chiamato per quello, e cerchiamo di restituirgli qualcosa con questa puntata, insomma, che rimanga il suo ricordo. Grazie Jerry, sei grazie, stato gentilissimo. Grazie, un abbraccio. Enrico, ma figurati, un abbraccio a tutti voi. Maracaibo. Innamorata, sì, ma di Michele, ma Michel non c'era, ero in cordigliera da mattina a sera. Dal 1999 la carriera cinematografica e televisiva di Guido Nicheli subisce un vero e proprio stop e in un'intervista dichiara di essere uno che non ha mai avuto bisogno di chiamare qualcun altro per lavorare. La sua libertà più grande è stata quella di poter decidere sempre se e quando lavorare senza rincorrere un regista o un altro. E il fatto che abbia smesso di partecipare ai film dipendeva dal fatto che negli anni i gusti cambiano, il suo personaggio, che probabilmente era legato agli anni Ottanta, non era più attuale. Lui l'ha presa sul ridere questa cosa, ha continuato a fare l'odontotecnico. Poi nel 2006, come ci ha detto Jerry prima, rientra e recita con Jerry Calà in Vita Smeralda, che era un film che in qualche modo riprendeva quel tipo di ambientazione. Il 28 ottobre 2007 il Dogui ha tolto il disturbo, come avrebbe certamente detto lui. Viene colpito da un ictus mentre stava giocando a carte con gli amici al circolo di Zelata di Bereguardo, vicino a Pavia, dove era andato a abitare negli ultimi anni, lontano dai riflettori del cinema, dove è rimasto finché ha voluto, senza farsi troppo illudere dal successo. Io peraltro lo conoscevo abbastanza bene ed era una persona molto spiritosa e soprattutto aveva battute fulminanti molto diverse, assolutamente come ve lo immaginate. Bene, tra le sue indimenticabili battute se n'è aggiunta un'altra, quella che c'è sulla lapide del cimitero con una sua foto sorridente e una semplice frase, una di quelle che ha fatto la sua fortuna: see you later. Giro di ricognizione del pueblo in ricerca de los amigos, hasta la vista. Ivana, mi raccomando, il pantalone nell'armadio, il pantalone bello diretto, hai capito? E un po' di ordine in stanza. See you later. Noi abbiamo scelto di raccontare sempre vite straordinarie e sicuramente quella del Dogui di Guido Nicheli lo è stata. È una persona che si è divertita molto, secondo me, nella vita e se l'è goduta. Insomma, io quando lo vedevo sempre con un sorriso beffardo sulle labbra, uno che ha saputo stare al mondo. Noi vi aspettiamo con altre storie, segnalatecele via mail al falcoilgabbiano@radio24.it e poi c'è il nostro podcast, quindi avete anche la possibilità di riascoltarvele le nostre storie e di sentirle se ve le siete perse. E poi cercatemi sui miei social, sui nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.